In Italia era molto più conosciuta l'America Latina o l'Asia, e noi siamo la generazione del Vietnam. Camaradas e compatriotas, neste momento em que começamos o novo ano de vida e de luta e o nosso combate pela independência do nosso povo africano. Il centro Amilcar Cabral è una biblioteca, un luogo di studio, di riflessione e di dialogo. Ci parla di Africa, America Latina, Asia, ma soprattutto ci parla di pratiche di relazioni internazionali. Questo posto ha compiuto 50 anni e in questo podcast vi raccontiamo pensieri, emozioni e scintille che hanno dato origine nella Bologna degli anni 70 a un centro studi intitolato al leader rivoluzionario africano Amilcar Cabral. Negli anni della lotta politica di Amilcar Cabral, il mondo stava lentamente ma inesorabilmente cambiando. Se al momento della sua nascita, nel 1945, le Nazioni Unite radunavano 51 paesi, nel 1960 questi erano già 99 e il loro numero era destinato a crescere fino ai 193 di oggi, con 17 la cui candidatura è ancora al vaglio dell'ONU. Com'è successo questo? Possiamo dire che gli imperi coloniali fondati dalle potenze europee si sono lentamente sgretolati e dalle loro ceneri sono nati altri paesi, ma questi paesi hanno raggiunto l'indipendenza a seguito di processi di liberazione molto diversi tra loro. La violenza è stata uno degli elementi che ha costruito il faticoso processo di decolonizzazione ed è forse una delle eredità su cui vale la pena riflettere. Diceva Frantz Fanon: la violenza che ha presieduto all'assetto del mondo coloniale, che ha ritmato instancabilmente la distruzione delle forme sociali indigene, demolito senza restrizioni i sistemi di riferimento dell'economia, i modi di presentarsi, di vestire, sarà rivendicata e assunta dal colonizzato quando la massa colonizzata, decidendo di essere la storia in atto, si riverserà nelle città proibite. Molti dei protagonisti di quel processo, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Cabral, hanno avuto la forza di accompagnare una lotta violenta con un grande sforzo immaginativo volto a costruire una nuova società. La scelta di Cabral di accompagnare la riflessione sulla guerriglia a quella pedagogica andava proprio in quella direzione, non solo per il processo di educazione politica delle avanguardie combattenti, come indicato da Mao Zedong o Che Guevara. No, è che occorreva costruire una società nuova. Rebel forces in Damascus have declared the capital city free of longtime ruler Bashar al-Assad. Reports say that President Assad has left Damascus by plane for an unknown destination. A dicembre del 2024, mentre siamo immerse nella produzione di questo podcast, la Siria sta conoscendo un cambio di scenario improvviso, di cui facciamo fatica a cogliere realmente la portata e di cui fatichiamo ad immaginare le conseguenze. Come fare a capire cosa sta succedendo? Chi ha fondato il Cabral ha avuto proprio questa domanda in mente. Come fare a comprendere i cambiamenti mentre questi sono in atto? Oggi non sappiamo cosa succederà in Siria, come all'epoca non sapevano cosa sarebbe successo in Ghana o nel Mozambico. L'internazionalismo è il filo rosso di cui vogliamo parlare in questa puntata, chiedendoci se un'idea internazionalista si può vedere ancora oggi. La drammatica condizione della popolazione della Siria, la feroce repressione nei confronti delle minoranze, come nel caso dei curdi per noi, ha alimentato un'ondata di internazionalismo che vale la pena sottolineare e ripetere. In fondo ci sono anche persone che, partite dall'altra parte del mondo, in Siria hanno perso la vita, anche per difendere il senso e i valori di una battaglia per una nuova società e un nuovo modello di convivenza come quello sperimentato nelle comunità curde e nelle zone autonome del Kurdistan. Cosa ci dicono queste esperienze di vita? Che rapporto hanno con il passato e con altre esperienze di internazionalismo? Il manifesto del Partito Comunista si chiude con uno degli slogan più famosi di tutti i tempi: proletari di tutti i paesi, unitevi. Fin dalla sua nascita, in effetti, il socialcomunismo ha sempre avuto un orizzonte che andava molto al di là dei confini nazionali. La stessa organizzazione che a fine Ottocento riuniva gli attivisti, i movimenti, i sindacati, i partiti socialisti e anarchici si chiamava Internazionale, e l'Internazionale era anche il titolo della canzone che, tradotta in tutte le lingue del mondo, faceva da colonna sonora agli scioperi alle manifestazioni, alle feste del primo maggio. Il socialcomunismo era internazionalista perché solo un superamento dei nazionalismi avrebbe evitato quelle guerre nelle quali i proletari in divisa erano costretti ad uccidersi l'un l'altro, e perché solo l'internazionalismo avrebbe potuto portare un giorno all'abolizione delle classi, delle religioni, degli stati oppressivi e autoritari. Crema Pagliatera! A Cabo Verde! Se una roccia la terra e in uso di migrazione c'è un cosa di essere esplorato, c'è un cosa di essere maltrattato. L'internazionalismo di matrice comunista ha conosciuto molte trasformazioni, in particolare nel secondo dopoguerra. Dopo la morte di Stalin e con la scoperta del Terzo Mondo, con la rivoluzione cinese, le guerre in Vietnam e in Corea, i comunisti abbracciano sempre più il sud globale. I comunisti italiani sono alla ricerca di un nuovo internazionalismo e il Terzo Mondo rappresenta un elemento esistenziale, uno spazio di manovra per il comunismo internazionale, per l'Italia e per l'Europa. E qual è l'humus in cui tra gli anni 60 e 70 il PCI e altri attori della sinistra si rapportano a questo terzo mondo? Ce lo spiega Vincenzo Russo, professore all'Università Statale di Milano. Allora, anni 60 e anni 70 in Italia c'è una costellazione che io chiamo in maniera molto generica terzo mondista, dove per terzo mondismo identifico ovviamente quella specie di fascinazione, di movimentazione politica, sicuramente passione ideologica per tutto ciò che viene dal terzo mondo e soprattutto per quanto riguarda quei processi, quei movimenti di liberazione che avvengono in America Latina, in Africa soprattutto e in parte in Asia, e che affascinano ovviamente giovani, meno giovani, intellettuali e anche non intellettuali della cosiddetta galassia, no? Delle tante sinistre. L'ho chiamata costellazione terzomondista per tante ragioni, appunto fascinazione per il terzo mondo, ma in cui ovviamente tanti filoni di pensiero, tante tradizioni di pensiero confluiscono per, come dire, dar sostanza a quella che possiamo chiamare una vera e propria solidarietà, no, italiana e europea verso quei mondi. Quali sono le tradizioni di pensiero? Sono l'anticolonialismo, l'antiimperialismo, che spesso si sovrappongono, a volte invece no. L'anticolonialismo ovviamente è qualcosa che in certe sinistre o addirittura oltre la sinistra, nei movimenti anarchici, sindacalisti, è qualcosa che era presente in Europa, in Italia già alla fine dell'Ottocento, ma che attraversa in maniera molto, come dire, carsica, molto silenziata e sotterranea anche tutto il fascismo. Esiste, si conosce pochissimo questo anticolonialismo, ma c'è un'opposizione, no, alla costruzione dell'impero italiano, e che soprattutto post seconda guerra mondiale si concentra sui luoghi caldi del mondo, no, quasi come una nuova resistenza, no, una specie di figlio dell'antifascismo. In Italia anni 60 e 70 si è anticolonialisti perché si capisce che altrove, in altre parti del mondo, si lotta per la propria liberazione o per la propria indipendenza nazionale. Il movimento comunista internazionale, però, non sviluppa mai una vera e propria politica né pratiche condivise sul terreno della decolonizzazione. Ma che cos'è stata questa decolonizzazione? Tracciamo un quadro di cosa è successo in questo senso verso la fine degli anni 60, tramite la voce di Anna Maria Gentili, ex presidente del Centro Cabral e storica dell'Africa, che abbiamo già conosciuto nella scorsa puntata. L'Africa fino a quel momento era considerato il continente senza storia, anche dalla parte delle sinistre, chiamiamole così. Nel 1970 il Papa riceve i capi delle lotte di liberazione delle colonie portoghesi, che sono questi Cabral e gli altri. Qual era l'altro impulso? Quali erano gli ultimi due paesi che non erano diventati democratici? Uno il Portogallo e l'altro la Spagna. I miei studenti sparirono tutti quando ci fu la rivoluzione in Portogallo, la chiamiamo rivoluzione, andarono tutti quanti a Lisbona. Qui interessava moltissimo il Portogallo, anche perché c'erano parecchi intellettuali e politici portoghesi che erano venuti qua, che conoscevamo, che frequentavamo, che erano molto molto credibili, non erano di quei rivoluzionari che volevano buttare le bombe, al contrario, erano dialoganti. E in più il governo portoghese sapeva benissimo che doveva prima o poi cambiare il sistema dittatoriale se voleva entrare in Europa, perché se no non entrava. L'altro fattore era che però gli Stati Uniti avevano già inserito il Portogallo nella NATO. Era forse anche un modo per incentivare il Portogallo a democratizzarsi, ma era anche un ostacolo, perché se guardate la geografia, la politica, le basi portoghesi erano importanti per tutto il sistema in costruzione di controllo e contenimento dell'Africa, dell'Asia, del Medio Oriente, eccetera, eccetera. Quindi già nel 56-57 era diventato indipendente quello che era il paese più interessante e importante del contesto del colonialismo inglese in Africa, che è il Ghana, il cui leader, Kwame Nkrumah, era un personaggio interessantissimo, molto, molto brillante. Allora, tutti questi hanno fatto una brutta fine. E poi il Congo, ex belga, il Congo che era il paese più importante economicamente, dalle grandissime risorse. Il leader del Congo, primo ministro, che viene eletto nel 1960, è Patrice Lumumba. Patrice Lumumba viene subito osteggiato e, diciamo così, l'accusa principale a questi leader era che erano comunisti. I leader della prima indipendenza, che non hanno accettato di seguire la strada dell'alleanza con l'Occidente, cioè con la Francia, con l'Inghilterra, sono stati tutti fatti fuori, o fisicamente oppure colpi di Stato. Nkrumah col colpo di Stato, Lumumba appunto è stato fatto fuori e sostituiti da militari oppure da leader totalmente legati agli interessi economici occidentali. Per capire ancora meglio che cos'era l'internazionalismo nel secolo scorso, siamo andate a trovare Giancarla Codrignani, intellettuale bolognese, scrittrice, più volte parlamentare e instancabilmente impegnata nei movimenti per la pace. E con il Cabral io poi, appunto, c'era il Mozambico, e sul Mozambico, siccome il comune assisteva direttamente le forze rivoluzionarie, era la sede dove si stampava il giornale del movimento liberatorio di Mozambico, si chiamava Mozambique Revolution. Siccome io avevo la tessera giornalistica, lo firmavo io. Quindi, se voi andate a vedere, anche perché era molto diverso il modo di rappresentarsi delle lotte di liberazione. Adesso noi abbiamo avuto delle grandi conquiste sul piano dell'internazionalismo. La democrazia è sviluppata un po' dappertutto, anche se ci sono i contrasti, sempre quelli reazionari o non reazionari, destra, sinistra e così via. Però non sono più i governi militari repressivi e pericolosi, per cui avevi le condanne a morte, avevi la gente che spariva, desaparecidos africani per esempio non sono così rilevanti, ma sono stati molti anche quelli, tutta una serie quindi di fenomeni che allora vedevano le forze politiche schierate, ma da tutte e due le parti. Il Cile per esempio aveva i propri esuli divisi per partito, i socialisti bolognesi avevano contatti con i rifugiati politici socialisti cileni, i comunisti con i comunisti, i cattolici con i democristiani e così via. Quindi c'era una strana maniera, detta strana oggi, ma c'erano queste proiezioni costanti di appartenenze. Il Partito Comunista Italiano diventa un attore centrale nel network anticoloniale e antiimperialista nel Mediterraneo, in Algeria ed Egitto, e poi nell'Africa continentale francofona, in particolare in Guinea e Mali, cercando di superare la propria subordinazione alla Russia sovietica, a sostegno di un incontro tra collettivismo tradizionale africano e idee marxiste. Dopo la frattura e le rivalità tra Mosca e Pechino e dopo la morte di Togliatti, il comunismo italiano è un mediatore chiave nel panorama internazionalista e terzomondista europeo, una forza dialogante. Nei primi anni 70, nel pieno della strategia della tensione, il cosiddetto eurocomunismo andava di pari passo con una nuova visione del ruolo dell'Europa nella lotta contro l'imperialismo. Si voleva scongiurare la diffusione del modello repressivo cileno di Pinochet, sostenuto dagli USA. Un'Europa forte avrebbe infatti potuto frapporsi tra le due superpotenze mondiali, USA e URSS, e in questo modo l'Europa avrebbe potuto frenare la penetrazione di regimi razzisti e fascisti e degli USA nei paesi del terzo mondo. Per esempio il Mozambico fu un'altra delle grandi campagne di quell'epoca, proprio perché era venuta, per quello che riguarda le mie scelte, un interesse internazionalista. La sinistra internazionalista voleva dire la solidarietà reale, non certo soltanto quella teorica, quindi la conoscenza delle cause che promuovevano determinate situazioni. Infatti la lezione di Lelio Basso, che era quella di avere anticipato quello che è il giudizio sulle due grandi potenze, era quella del fatto dei due imperialismi. Quello dell'Est era un imperialismo, non come quello dell'America, che era di natura diversa, ma lo era dal punto di vista economico, politico, militare. Quindi erano due blocchi con tensioni interne che dividevano il mondo ed erano un rischio per gli equilibri internazionali. Paradossalmente oggi sembravano anche la sicurezza, perché tutto sommato stavi di qua o stavi di là. Mentre il problema dell'internazionalismo era quello che risaliva ai testi sacri della sinistra, al marxismo, eccetera, eccetera, e trovavano una grande accoglienza, nel senso che non c'era, se non in determinati paesi o in determinati momenti, quella tensione che poi avrebbe provocato la contrapposizione estremistica di quello che anche per noi è stato il terrorismo rosso. E c'è un'evoluzione continua per me, lo dico personalmente, perché poi nel 76 io sono diventata parlamentare, quindi queste cose le ho trasferite, ero proiettata sul lavoro parlamentare. Allora ero nella commissione esteri, quindi questi problemi poi diventavano problemi anche di interrogazioni. In concomitanza con la firma degli accordi economici e commerciali di Lomé del 1975, tra i paesi della Comunità Economica Europea e gli stati membri del gruppo ACP, Africa, Caraibi e Pacifico, si svolgeva il primo viaggio di un segretario comunista italiano nel continente africano, in particolare in Guinea, Guinea-Bissau e Algeria. Enrico Berlinguer voleva così sostenere il ruolo delle sinistre in Europa per le lotte dei popoli africani. I viaggi del segretario del PC non si fermano per tutti gli anni 70 e continuano fino alla sua morte, nel 1984. L'amministrazione comunale di Bologna, guidata dalla Lista Socialcomunista e dal sindaco Zangheri, è uno dei numerosi enti locali che traducono sul territorio le politiche internazionaliste del partito e di larga parte della sinistra e delle forze democratiche in Italia negli anni 70. Il centro Amilcar Cabral nasce come espressione di solidarietà e di impegno verso i cittadini di Bologna, gli esuli e i popoli in lotta contro l'imperialismo e il fascismo. Il documento di cui vi leggiamo ora un estratto è dei primi anni 70. Si intitola «Proposta per la costituzione di un centro di amicizia per gli studenti stranieri democratici in Bologna» ed è conservato all'Archivio Storico Comunale di Bologna. Nella nostra città sono presenti migliaia di studenti stranieri, molti dei quali provenienti da paesi nei quali, per opera dell'imperialismo, è stata instaurata una dittatura fascista, Grecia, America Latina, Giordania, Persia, o in atto una guerra di aggressione, mondo arabo. Questa presenza qualifica la nostra città nello spirito e nell'impegno internazionalista. I partiti della sinistra, i sindacati, le associazioni culturali democratiche e il movimento cooperativo hanno saputo coinvolgere la stragrande maggioranza dei cittadini bolognesi in innumerevoli manifestazioni di solidarietà e di concreto aiuto ai popoli di quei paesi che lottano per abbattere il giogo imperialista. Il Comune e la provincia di Bologna hanno sempre saputo interpretare lo spirito internazionalista dei bolognesi. Patti di amicizia sono stati stretti con città e province di paesi dell'Europa e del Terzo Mondo. Attraverso la costituzione di comitati di solidarietà, gli enti locali bolognesi hanno assunto l'impegno di aiutare concretamente i popoli in lotta contro l'imperialismo e di far conoscere sempre meglio ai cittadini bolognesi la realtà di quei paesi. L'insieme di queste iniziative hanno caratterizzato Bologna, i suoi cittadini e gli enti locali come parte importante del grande schieramento democratico e antiimperialista. Con il colonialismo è una necessità vitale per i paesi dell'Africa e Cabral se ne rende conto lavorando come agronomo. In Guinea-Bissau tocca con mano l'impoverimento del suolo causato dallo sfruttamento intensivo della terra, prodotto da un'agricoltura volta all'esportazione e che non lascia nulla ai coltivatori. Viaggiare per il paese poi gli permette di conoscere meglio un contesto che aveva visto solo da bambino e di confrontarsi così con migliaia di contadini ai quali inizia a diffondere il suo messaggio anticoloniale. La PIDE, la polizia politica, lo sa e gli sta addosso. Il club sportivo e ricreativo, il dopolavoro che Cabral fonda a Bissau per organizzare attività culturali e sportive, viene chiuso dalle autorità. Nel giro di pochi mesi il giovane agronomo è destituito anche dal suo incarico e costretto a lasciare il paese. Prima di partire però fonda insieme al fratellastro Luis Cabral e ad Aristides Pereira il Partito Africano per l'Indipendenza della Guinea e di Capoverde. Il modello di lotta che il partito intende portare avanti è quello che sembra stia funzionando in altri paesi africani e asiatici, dove i colonialisti non intendono replicare i bagni di sangue dell'Indocina e dell'Algeria. Anche senza Cabral, così il partito decide quindi di lanciare una campagna di proteste pacifiche con boicottaggio e soprattutto scioperi. Quando il 3 agosto 1959 gli scaricatori del porto di Pigigucci scendono in sciopero per un aumento salariale, dalla direzione dello scalo parte una chiamata alla PIDE. Bisogna sgomberare il blocco costi quel che costi. La PIDE infatti decide che un po' di piombo rappresenta un costo accettabile e nel giro di pochi minuti 50 portuali guineiani cadono sotto le raffiche dei militari portoghesi. Non solo per Cabral ma anche per tanti altri, quel massacro di Pigigucci è un momento di svolta. È chiaro che l'imperialismo portoghese non è intenzionato a trattare, che non è disposto a concedere l'indipendenza in maniera pacifica. Nel 1960 il clima per Cabral è diventato davvero insostenibile. Lasciata Bissau, ripara in Angola, altra colonia portoghese dove ritrova l'amico dell'università Agostinho Neto. Con lui fonda il Movimento Popolare per la Liberazione dell'Angola, ma la PIDE è sulle sue tracce e Cabral si rifugia nell'ex Guinea francese che ha appena ottenuto l'indipendenza e ha instaurato un governo socialista. Qui può vivere insieme alla famiglia, continuando a seguire la lotta per l'indipendenza dalle colonie portoghesi portoghesi senza rischiare l'arresto e la deportazione a Capo Verde. A Conakry, la capitale di questa Guinea socialista, Cabral ha la possibilità di fondare una scuola quadri per formare i membri della guerriglia. In questo contesto la cultura infatti assume una valenza centrale. La lotta di liberazione non solo deve essere un'azione materiale, ma deve portare anche a un'emancipazione. Conoscere la propria cultura di appartenenza, ma anche quella bianca, sono due elementi determinanti, una maniera per riconoscersi un'identità da contrapporre all'assimilazionismo portoghese. Il lavoro di preparazione dei quadri del partito è intenso, difficile, e inoltre Cabral sa bene che se non si inserisce la Guinea-Bissau in una dimensione internazionale, la lotta per l'indipendenza, quando anche dovesse avere successo, sarà limitata al suo territorio. Per cui è necessario mettersi in viaggio e allargare lo sguardo, prima in Africa, a Tunisi per la seconda conferenza panafricana e a Dakar per la conferenza dei quadri delle organizzazioni nazionaliste africane, poi in Europa, a Parigi, a Londra, sotto lo pseudonimo di Abel Jassy. Ma la Pide è sulle sue tracce, inserisce in archivio anche questo pseudonimo, monitora i contatti esteri del leader del partito, ma ormai c'è poco da fare. Nel 1963, dalla Guinea Conakry, Cabral lancia le prime azioni di guerriglia. In capo a 6 mesi avrà già liberato il 15% del territorio nazionale. The job of progressives and revolutionaries everywhere is to hasten the death of imperialism. 50 anni oltre i confini è una serie podcast realizzata da Radio Walloon per Biblioteca Amilcar Cabral, settore biblioteche e welfare culturale del Comune di Bologna. Nel 2024 il centro compie 50 anni e celebriamo il centenario della nascita di Amilcar Cabral. Potete riascoltare le puntate su tutte le piattaforme e sui siti bibliotecaamilcarcabral.it e su radiovanloon.info. Fonti e bibliografia in sinossi. Lele.